No, Giluciano! Fat MC! Ma... Ma è mica più visto in giro? No, non si vedono più da nessuna parte. Non chiamate, li ho cercati. Niente, ma nemmeno. Ma c'era. E poi non ci sono più, che so che ci siete ma non vi vedo, manco fosse New York. Io c'ho un po' di ricordi che mi interrompo un po' nel vlog. Mi chiedo dove cazzo siete, penso a quelle facce scomparse con Pat, connesse le due mansarde. Promesse, grasse risate se ci ripenso. Pac, metti su una base che mi riprendo. Certo, sono rime campioni più tavernello. È una riga di pattoni come Savona nel 300. To, sbocco acido, il tuo dinamico, didattico. Non vedo nessuno, questi scompaiono. Mesi dopo cercano il numero e mi richiamano. Una gara di freestyle, vai, ma va a cagare. Crepa, resto lirico, bacco da seta, in bilico tra profeta e cialtrone come Gesù. Oggi Luciano e Donna Brau rappresenta classici per la scelta avversa. Ciao. Chiudi gli occhi per vedere chi non vedi tanto. Li vedi ancora largo, vedi se resteranno. Apri gli occhi per vedere qui chi sta spaccando. Si chiederanno se è vero che stanno arrivando. Chiudi gli occhi per vedere chi non vedi tanto. Li vedi ancora largo, vedi se resteranno. Apri gli occhi per vedere qui chi sta spaccando. Si chiederanno se è vero che stanno arrivando. Domanda chi me l'ha visto, se lo sanno cosa faccio sopra i pari. Incastro quarti detonanti dividendo il fiato in pari. E in tanti scomparsi nella lista sono in fondo. Come me che sto vivendo ma non vedo questo mondo. Sono pronto fino a porto giù con roggini non storto. Dando torto a chi c'è contro, questo suono non è morto. E ribadisco, ho tecniche mistiche sul mio disco. E chi parlava fisso mi chiedo chi l'ha visto. Entro dopo un decennio dall'inizio del millennio. Mi impegno per non sparire, lotto contro il vostro regno. Segno serio rimedio dopo ritorno in ingegno. Fuori dal nulla vi risveglio, rapper teste di legno. Sono scomparsi e quelli che non vedi che voi cercano. Li trovano piegati sopra un foglio che balbettano. Davanti alla tastiera dentro il tuo TG la sera. Chi l'ha visto può dire che fosse una cosa vera. Chiudi gli occhi per vedere chi non vedi tanto. Li vedi ancora largo, vedi se resteranno. Apri gli occhi per vedere qui chi sta spaccando. Si chiederanno se è vero che stanno arrivando. Chiudi gli occhi per vedere chi non vedi tanto. Li vedi ancora largo, vedi se resteranno. Apri gli occhi per vedere qui chi sta spaccando. Si chiederanno se è vero che stanno arrivando. Lo sai, Raggi Luciano, Fat MC, Lil Buck. Quindi? Grazie.